Il significato delle cebadas è quello che tutti conosciamo per averle mangiate e che quindi, ovviamente, avvertiamo attraverso gli organi sensoriali del gusto. Scusate. Su questo non credo esistano difficoltà per nessuno, neppure per i miei radioutenti meno attenti. Per avvertire quel significato, nella maniera più completa, però, bisogna venire in Sardegna, perché forse non basta semplicemente usare correttamente gli stessi ingredienti. Ci vuole anche il profumo dell'aria, credo. Mangiarle in un ristorante di New York, anche se cucinate da un cuoco sardo, non deve essere la stessa cosa che mangiarle da noi, magari in campagna. Comunque, il significato di fondo delle cebadas, quello che si capisce proprio dentro la bocca, senza i contorni dell'ambiente, deriva da una accorta regia nella distribuzione delle parti. La pasta va frullata in un certo modo, il formaggio deve essere quello, l'olio quell'altro, il miele, ecco, col miele non si deve sbagliare.